la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16, 33, 50 secondi, è praticamente un record rispetto ai tempi di solito più tardi con cui cominciamo oggi. Buon inizio di settimana, buon lunedì 7 di luglio, auguri a chi si chiama Claudio e festeggia oggi appunto San Claudio. Tema subito della puntata per decidere se volete darci la vostra opinione telefonando all'800 24 0024 oppure con gli sms che sapete provo sempre a leggere in un buon numero, 349 238 6666. Oggi chiedo in particolare se siete stati o vi considerate ancora elettori del centrodestra, perché non ne parliamo da un bel pezzo del centrodestra. Abbiamo più volte parlato del Movimento 5 Stelle, puntate dedicate al PD, ai dissidenti di entrambe le forze, alle linee di entrambi i partiti. Oggi l'ospite che ho scelto è un ospite che ha un incarico difficile, almeno a mio maniera di vedere, cioè quello di tentare di ricostruire dal basso, girando l'Italia, il centrodestra, Forza Italia, e chiederemo come intende farlo, appellandosi a che tipi di valori, che tipi di scelte. Credo che lui sappia per primo molto bene, è giovane, che è un'opera molto molto molto difficile, dopo 20 anni di Berlusconi. Quindi dateci la vostra opinione, ci credete, non ci credete, come bisogna cambiare pagina, se una storia è arrivata all'esito finale, bisogna pensarne a uno diverso oppure no. Comunque tutte le opinioni, come sapete, sono ben accette. Oggi è una giornata particolare dal punto di vista politico, perché il confronto tra 5 Stelle e PD, e forse lo avete sentito ai giornali radio, che già sembrava instradato su una via di concretezza dopo tanta durezza nei rapporti reciproci, invece è già finito, perché l'incontro che ci deve essere oggi non c'è, perché il PD aveva detto a Di Maio e ai 5 Stelle: dateci delle risposte scritte sui nostri 10 punti, non ci sono state. Il PD ha detto niente incontro, e Grillo ha asfaltato già tutti coloro che nei 5 Stelle volevano continuare comunque il confronto, dicendo si va alla dittatura delle Bettino, quindi si torna ai toni durissimi da questo punto di vista. Sapete, secondo elemento, che sulla riforma del Senato, titolo quinto, e sulla legge elettorale i dissidenti di Forza Italia e PD tengono duro. Anzi, la svolta del giorno è che i dissidenti del PD e di Forza Italia hanno iniziato ad annunciare iniziative comuni, una conferenza stampa comune, quindi Mineo e i dissidenti del PD e Minzolini con quelli di Forza Italia, tanto per dimostrare che tengono duro e non si piegheranno sul Senato elettivo, e così via. Nel frattempo oggi inizia l'Eurogruppo e domani l'Ecofin, e vedremo Padoan che cosa porta a casa delle riforme o non riforme, in base a quale chiedere uno sconto in Europa, perché quello sarà il refrain più importante di quella legge di stabilità. Sarà un'estate calda sui conti, secondo me almeno, perché molte cose non tornano. Oggi la Banca d'Italia ha dato un'ulteriore gelata alla lettura dei dati del 2013, sapete, un PIL che è al segno negativo, ma il problema è che ha dato la disaggregazione geografica del PIL 2013. Il Sud nel 2013 ha perso altro 4 punti di PIL dopo i 2,8 del 2013, quindi c'è un'Italia sempre di più spaccata in due. Ma se questa è la sintesi della giornata, andiamo a presentare l'ospite per iniziare a fargli un po' di domande e farci spiegare da lui il compito di rivitalizzare come, su che temi, con quali scelte, in quali tappe il Forza Italia centrodestra italiano. È con noi infatti l'ex sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito, grazie. Allora, io so che non è un compito facile, però ci conosciamo da un po' di annetti e mi sono detto, visto che te la sei presa sulle spalle, a questo punto diamo la possibilità di spiegare in che cosa consiste questo compito. Di preciso, in che cosa consiste? Sì, grazie, mi dà la possibilità perché si è letto un po' di tutto sui giornali, no? Un po' di tempo fa è venuta fuori la notizia che mi è stato affidato l'incarico della formazione degli amministratori locali. Poi molti radioascoltatori magari ricorderanno che insieme a Totti sono stato identificato per quello che è passato un po' come una sorta di talent scout. Ora, siccome io non so fare i talent show né i talent scout, E siccome invece ho fatto con grande impegno il sindaco per 5 anni, e in questi 5 anni ho fatto anche delle battaglie che avevano un DNA, quello di aprire un centrodestra dalla base e alle migliori intelligenze contributi anche dall'esterno del mondo della politica, ho proposto una rielaborazione, quindi, come dire, più aderente alla mia storia, al mio modo di essere e di fare, e quindi da sabato, il 12 luglio, questo che arriva, saremo ad Ascoli per fare cosa? Innanzitutto per ascoltare e dare anche un'occasione di parlare, di dire la propria, a una classe dirigente che il centrodestra ha ancora, ancora lo dico perché è davvero in giro per i territori l'insoddisfazione è tanta, che è quella composta da amministratori locali, da gente che le sue primarie in qualche modo le ha fatte, nel senso che si è candidata ed è stata eletta, ma poi anche tutti coloro che si ritengono di centrodestra in un momento estremamente difficile, ma vogliono essere ascoltati e immaginano un centrodestra rilanciato e diverso da quello che in questo momento stiamo vedendo. E quindi questo è un po' il lavoro che inizia, non sarà una tappa isolata, ma sarà una serie di tappe. La seconda sarà a Cosenza, in Calabria, dove avremo anche un appuntamento importante come le elezioni regionali a novembre, quindi è fondamentale dare dei segnali di un certo tipo e darli subito. E poi saremo anche in sostanzialmente tutte le regioni. È impegnativo, ma insomma io credo che sia l'unico modo per riprendere un po' il mandolo della matassa. Lo faccio con convinzione, con coraggio, lo faccio, ribadisco, andando soprattutto a coinvolgere persone che credono ancora nel centrodestra ma vogliono tornare a parlare di contenuti e anche a una riorganizzazione interna di Forza Italia, ma io dico un po' di tutto il centrodestra, perché oggi davvero c'è bisogno di riorganizzare complessivamente quest'area politica. Allora, hai citato la Calabria e ti faccio subito una domanda concreta, perché io sono molto curioso, vedrai che le domande che ti faccio sono tutte più su cose concrete per capire un po' come la pensi e come pensi che la debba pensare il centrodestra a cui lavorerai. Siccome parlando di Calabria, tu hai detto si vota a novembre, per il momento il Consiglio regionale della Calabria non riusciamo a farlo dimettere, perché hanno votato una legge regionale che è volta a impedire a chiunque non abbia il 15% e non sia collegato di rientrare, e il Consiglio regionale punta i piedi. Dall'altra parte oggi chi ha letto il Corriere della Sera, Corriere Economia, ha trovato un devastante sintesi di 247 pagine fatta dagli ispettori del Tesoro e della Ragioneria Generale mandate a guardare i conti di Regione Calabria in questi ultimi anni, e in queste 247 pagine c'è il riassunto di un pezzo della devastazione italiana. Io non ce l'ho con i calabresi e ci mancherebbe altro, però la politica e la pubblica amministrazione calabrese in queste 247 pagine viene descritta con oltre 1000 dipendenti illegittimamente assunti e migliaia e migliaia di aumenti retributivi, premi al di fuori delle retribuzioni ordinarie del risultato ai dipendenti, tutti illegittimi. Cioè l'articolo lo firma Sergio Rizzo oggi sulla prima pagina del Corriere d'Economia, e il problema è che di fronte a questo quadro attualmente in Italia non si può fare niente. Noi abbiamo queste 247 pagine, come della Sicilia sappiamo da anni che gli attivi patrimoniali del suo bilancio sono falsi, ma in realtà una volta che abbiamo queste carte alla mano che testimoniano illegittimità e sfondamenti per centinaia di milioni di euro, non si può fare nulla. Allora la domanda che ti faccio è: nel titolo quinto nuovo di cui si parla, e in cui allo stato attuale non si scrive nero su bianco che le famose procedure per mandare a casa chi è responsabile del default, per obbligare a impedire questo tipo di pratiche e a sanzionare gli amministratori che le prendono, siccome sei stato sindaco per anni, secondo te il centrodestra su queste cose deve voltarsi dall'altra parte, un po' come stanno facendo tutti i partiti sul nuovo titolo quinto, perché quelle norme sono saltate, non ci sono attualmente prescritto, oppure bisognerebbe avere il fegato di dire, se ci abbiamo queste 247 pagine sulla Calabria, ma potrebbe valere per chiunque altro, in quel caso ci vogliono poteri per mandare a casa i responsabili e anche per sanzionarli ex post? Come la vedi? Ma io la vedo assolutamente come chi ha cercato di essere un amministratore virtuoso e poi spesso ne ha pagato le conseguenze sulla propria pelle, perché si è trovato sempre tagli lineari, si è trovato a vedere appianato debiti. Adesso parlavi di regioni, io anch'io sono molto concreto e mi piace parlare di esperienze vissute in prima persona. è capitato che abbiamo vissuto delle sanatorie di fine anno a quei pochi sindaci che avevano sforato il patto di stabilità, e francamente a me poco importa che fossero di centrodestra o di centrosinistra. Credo che oggi, soprattutto chi è di centrodestra e ha certi valori liberali, di meritocrazia vera, queste battaglie le deve fare a viso aperto. E anzi, credo che proprio su queste tematiche che un certo tipo di sinistra ha più difficoltà a portare avanti un discorso di merito vero, perché vengono da un retaggio culturale differente. Ecco, questo è uno di quei buoni motivi per tornare a fare un centrodestra liberale, un centrodestra meritocratico, un centrodestra che metta al centro la buona amministrazione vera. Quindi su questo tema del titolo quinto io l'ho fatto da vicepresidente di ANCI, lo sono ancora, quindi vado avanti a farlo, quello di inserire che chi sbaglia deve essere mandato via come amministratore pubblico, qua non c'è santo che tenga. E poi dico una cosa di più, ho una notizia che non ha trovato molto spazio sui giornali, se non alcuni giornali. Io la vedo un po' come Caldoro, perché provocatoriamente da presidente della regione Campania ha detto aboliamo le regioni. È un modo provocatorio per rimettere al centro del dibattito che con l'occasione della revisione del titolo quinto rimettiamo un po' mano anche al ruolo strategico delle regioni. Guarda, io tanto sono d'accordo che ho twittato quel giorno dell'intervista di Caldoro, peccato che sia Caldoro da solo e non per esempio tutta Forza Italia, tutto il centrodestra a dirlo, perché secondo me diventava uno, anche perché il più della spesa è andata fuori controllo, visto Italia Comune, è quella delle regioni, è quella delle regioni. Quindi secondo me La regione Calabria non ha avuto un bilancio della sanità fino a poco scritto tempo fa. Quando entrò sotto procedura di rientro coatto, infatti dovettero chiamare una società di consulting esterno perché non c'era la scrittura. Da questo punto di vista devo dire che insomma Scopelito aveva cercato almeno di avviare un iter che in qualche modo era arrivato poi anche a imporre una cosa che francamente appare assolutamente di buon senso. Ma ecco, io questo non lo so, perché io vedo che sia destra che sinistra in Calabria hanno delle responsabilità nelle giunte passate pazzesche. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta 16:47 primi a parlare un nuovo centrodestra, rifarlo dal basso, come, cambiando cosa, eccetera. Il nostro ospite Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia, vicepresidente dell'ANCI, che in Forza Italia adesso c'ha proprio il compito di girare dal basso e ricostruire, sentire i quadri dirigenti, sentire quali cambiamenti e così via. Io devo dirvi la verità, Alessandro Cattaneo, l'ho seguito con interesse per anni perché non faceva parte di cerchi, adesso si dice cerchi magici, ma insomma non era uno stretto berlusconiano, non ha responsabilità diretta in quello che è successo. Naturalmente sta poi nel partito di Berlusconi, per questa la mia curiosità è capire da un giovane amministratore che si è battuto, talvolta lasciato anche un po' solo dal suo partito secondo me su cose di rigore, come pensa di ritrasmettere queste cose a una base elettorale che insomma è molto molto molto scossa e in decrescita. Allora, innanzitutto alcuni messaggi dei nostri ascoltatori. C'è chi dice voterei a destra di nuovo se ci fosse un nuovo in Audi Massimo, ma per il momento troppa spesa, troppe tasse ho visto anche nella destra in questi anni. C'è chi invece c'è chi poi picchia sullo stesso argomento come Enrico, ma in modi diversi, dice bah, qui al termine di 20 anni il bilancio della destra in Italia è che mi pare che non hanno smantellato Stato e spesa, mi pare che la gara sia a chi le dice più di sinistra le cose sulla spesa e nel nostro paese. E sentiamo anche alcuni ascoltatori direttamente, così le loro domande, le loro considerazioni, poi facciamo rispondere direttamente Alessandro Cattaneo che è qui con noi. Cominciamo con Antonio che ci chiama da Bari. Prego Antonio. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. No, io sono un vecchissimo elettore di Forza Italia, berlusconiano dal 93, ho sempre sostenuto tutte le campagne sue, anche qui nel Barese, nel Schipulli, ho sempre partecipato. Oggi ho 50 anni, oggi mi trovo in grossa difficoltà, ho votato Berlusconi anche agli ultimi europei, giusto? Sì. Oggi sono veramente in grossa difficoltà, non ho più un partito di riferimento, perché io sono una partita IVA, attenzione, sì. Io sono una piccola partita IVA dove ormai... Solidarietà. solidarietà a tutti, perché non se ne può più. E noi ci aspettavamo dal presidente, dal nostro presidente, in tanti anni, ancora oggi, delle situazioni. E cosa chiederebbe a Cattaneo? Allora, a Cattaneo, per proprio la politica in generale, la centrodestra, sì, ci vogliono, secondo me, brevissimo, non voglio rubare tempo, 4 punti che al popolo servono. Abbassamento delle tasse, chiaramente prendendo i soldi dal dimagrimento, come diceva il presidente dello Stato, secondo la cosa pubblica, poi fare dei piani casa per il popolo, qui veramente comprare una casa. Lei lo sa che la competenza delle regioni ha impedito questa cosa qui. Terzo? Lo so, ma bisognerebbe fare in modo che la politica deve fare questo. Terzo. Il terzo è il lavoro qui sta crollando, cioè veramente, e qui i nostri figli, io ho 50 anni, quasi 51, l'anno prossimo, e dico in piena onestà, non so se la società mi rinnova il contratto. Perfetto, la mia opinione è che con gli 80 euro noi lavoro non lo aggiungiamo e non facciamo più consumi, come si vede, mentre invece con meno IRAS e meno IRAP, una scelta diciamo, per le imprese, lo facciamo di più. Ma come sa, questo non è oggi pane condiviso dalla politica. Il quarto punto qual era, Antonio, però? 4 punti servono, che devono fare. E il quarto, però, dopo il lavoro, qual è il quarto? E il quarto, vabbè, io ho detto 3, adesso il quarto. Sono vabbè, poi fermiamoci qua. Silvio da Cuneo, prego Silvio. Bene. Io sono un imprenditore di 50 anni della provincia di Cuneo. Sì. Sono da sempre un liberale. Io, come diceva quello che mi ha dato il messaggio a lei prima, vivo vicino a Dogliani. E quindi, insomma, poi è Einaudiano. La tomba di Einaudi, sì. Io faccio l'imprenditore e fortunatamente faccio parte di quella categoria degli imprenditori che hanno un trend positivo negli ultimi anni. Ah, ma... Ho 2 aziende, chiudiamo con più 35% sull'anno scorso. E sono passati in 3 anni da 10 a 19 dipendenti. Settore? Io sono un cioccolatiere, tra l'altro volevo salutare il ex sindaco Cattaneo, che ci siamo conosciuti perché io ho fatto la fabbrica del cioccolato. Va bene, però a Cattaneo cosa chiede? Perché lei è un deluso o non è un deluso? Io sono un delusissimo, non sono un deluso. E cosa gli chiede di cambiare al centrodestra? Intanto la modalità. E poi una scelta qualitativa dei candidati. Noi nella zona di Mondovì abbiamo Enrico Costa, erede di Raffaele Costa, di Raffaele. Ma la politica non la si fa con gli eredi. Perfetto, ok. Grazie. Perché il problema è che il tempo, c'è anche Andrea D'Asti, prego, rapido però. Andrea. Sì, buongiorno a tutti. Sì. Anch'io ex elettore di Forza Italia da sempre, dal 94, quando Berlusconi ha inventato questo concetto della meritocrazia portandolo in politica, e nelle ultime europee per la prima volta nella mia vita ho votato per Renzi. Proprio perché... Ma potrebbe ricambiare idea oppure è una scelta che secondo lei è un po' difficile che cambi? Potrei ricambiare idea perché onestamente le mie radici sono quelle. Ma se avvenisse cosa? Se avvenisse, allora innanzitutto una proposta politica seria, io vedo uno sbandamento di idee impressionanti, le cito solo un esempio visto che mi ha detto che ha pochi secondi per me. La storia che dopo le europee è stato quasi investito di leader del centrodestra Salvini, quando 2 giorni prima era a braccetto con Marine Le Pen. Cioè, l'elettorato moderato, quando sente ste cose... Andrea, chiaro, la devo ringraziare, abbiamo dato un po' di spunti, ma io ci aggiungo la domanda delle domande. Lo so che adesso ti metto in difficoltà, Alessandro, però c'è un bel po' di elettorato che dice con Berlusconi o c'è una svolta e Berlusconi lo capisce, dice farò il padre nobile, però non posso più guidare io, oppure no. Allora, di tutte queste cose, però questa cosa non la eludere, perché lo sai che il mio mestiere è dovertela chiedere, e le tue risposte agli elettori, ma parti da questa cosa di Berlusconi. Che cosa può ancora rappresentare per te? Beh, Berlusconi nei fatti rappresenta ancora il baricentro del centrodestra, perché tutti quelli che sono usciti, parlo dei fatti, poi non hanno trovato un riscontro elettorale, penso a figure anche positive, insomma apprezzabili come Meloni, come Alfano, come Lupi, come anche altri nella Lega, no? Vabbè, lasciamo perdere Fini prima. Andare oltre a un ruolo baricentrico di Berlusconi. Berlusconi è il primo che ha cercato di dare il via Però Berlusconi lo sai, non si può più candidare, adesso vai tra processi, l'Europa, eccetera, eccetera. Quindi capisci che un leader deve essere potenzialmente, per farsela con Renzi, deve essere uno invece che si può candidare e può vincere. Questo è pure. Guarda, e io credo che le leadership non si inventano a tavolino in laboratorio, ma vengono fuori da una competizione in qualche modo democratica. Credo che le primarie possono essere un buon terreno, che noi dobbiamo però preparare, anche perché oggi il mio timore è che se facciamo delle primarie di centrodestra, gli elettori di centrodestra non trovano di buoni motivi, di contenuti per mettersi in fila un gazebo a votare questo o quell'altro. Quindi la mia roadmap è: uno, carta dei valori, cioè devono ritrovare dei valori codificati, pochi, buoni, precisi, per dire io sono da questa parte del campo, sono di centrodestra, sono liberale. Due, ritrovare delle tematiche politiche su cui contrastare questo governo, su cui ritrovare il nostro elettorato, alle partite IVA, non parliamo più da troppo tempo, su tematiche come l'immigrazione, dobbiamo dire chiaramente che la pensiamo diversa da questi, sul taglio brutale della spesa pubblica, è proprio uno di quegli elementi in cui questo centrosinistra può essere messo in gravissima difficoltà. Tu capisci, Alessandro, su questo ti devo far riflettere, che dipende sulle gambe e sulla testa di chi lo mette il taglio alla spesa, perché la sua credibilità è tutta lì. Alla prova dei fatti, in 20 anni, lo sai meglio di me che la spesa corrente, quando Berlusconi e Tremonti hanno governato, è andata come è andata. Quindi il problema è, se quella è la via, secondo me anche, figurati, il problema è trovare persone che siano in questo credibili, se no l'elettorato dice abbiamo visto, ma è andata al contrario, o no? Assolutamente, ma infatti il terzo punto della mia roadmap è un metodo, perché dobbiamo trovare un metodo per selezionare una classe dirigente differente che riesca a rilanciare tutto questo. È ovvio che, ribadisco, non va bene la cooptazione, e io dico che proprio devo e ho l'obbligo che sento rispetto anche a tutti quegli amministratori che mi chiedono di andare avanti, di cercare di combattere per organizzare delle regole, una competizione sul terreno che faccia emergere le leadership vere e migliori. E io sono straconvinto che se percorreremo questo percorso, che è complicato, è faticoso, ma sono altrettanto convinto che ci sono tutte le potenzialità per tornare a rappresentare la maggioranza degli italiani. Nell'ultima tornata delle europee la maggior parte del popolo di centrodestra non è andato a votare, in termini assoluti Renzi ha preso meno di Veltroni nel 2008, vuol dire che sono alla finestra, se non diamo risposte si sposteranno forse dall'altra parte i nostri elettori. Se torniamo a essere credibili con contenuti rilanciati e persone credibili, possiamo, ne sono certo, anche a ritrovare il nostro elettorato. Guarda Alessandro, io ti faccio i miei auguri, ti dico solo che questi 20 anni dicono che andare avanti con coerenza su questa roba significa dover mettere in conto anche l'idea di poter essere messi duramente alla porta da chi sono i leccapiedi di Berlusconi. Sono troppi e secondo me hanno fatto male a Berlusconi più di quanto Berlusconi facesse male a se stesso in tante vicende. Comunque seguiremo il tuo percorso, intanto continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.